di me, 12-15 mesi. Allora vedete, mettete la barca, correte, correte che l'hai visto, bello, bello figli, la devi da fare, eccolo Caveri, eccolo Caveri, bello figli, dai, corri che sta andando, corri che non lo vedi, bello. Dai, e dai, lo vedi, lo vedi, lo vedi, picchia la fiaggina, accendi, lo accendi, lo accendi, lo accendi, oh! Te pigliara la femminetta, dritto dritto un cianlu cori, e chiancia di doluri, ai ai ai ai ai. E la barca la strascinava, e lo sangue ne corria, e lo mascolo chiancia, ai ai ai ai ai. E il mascolo pari ampazzuto mi dicia, beggia mia, non chianciri, beggia mia, non chianciri, dimmi dia che io fari. Rispunnia la femminetta con un filo, filo e voce, scappa, scappa, amore mio, casi non t'acciti. No, no, no, no, no, no, amore mio, se tu mori voglio morire insieme a te, se tu mori amore mio voglio morire. Con un sarto si trovissa cucchio cucchio cuore a cuore, e così finiu l'amore di dopisci sfortunati. Dai, e dai, lo vitti, lovitti, c'è pure lo mascolo, piglia la fiocina, accendi, lo accendi, lo accendi. Chi ste na storia? D'un pisci spada storia d'amore.